24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci qua alle 7:20 minuti, cari ascoltatori, chiudiamo la settimana di 24 mattino in diretta fino alle 9 nel nostro sondaggio. Oggi parliamo di Sanremo, dove sapete c'è questa proposta di Gianni Morandi, del direttore artistico Mazzi, di cantare Bella Ciao e Giovinezza. Qualcuno dice: ma come, l'inno da una parte della liberazione dei partigiani, dall'altra del fascismo? È arrivato il no della Rai. Noi vi chiediamo: secondo voi siete d'accordo? Vi darebbe fastidio sentire queste canzoni, oppure le sentireste con piacere? E allora radio24.it per votare. Ne parleremo poi alle 8:30. E come di consueto, da cosa iniziamo? Dalla lettura dei giornali in edicola. In primo piano. Venerdì 5 novembre, la politica certamente conquista i prime pagine dei giornali con i titoli: Berlusconi, patto, confini o si vota. Per il Corriere, anche Repubblica: Berlusconi affini con me o si vota. Così il Messaggero: nuovo patto o voto, la sfida affini. Questo per la Stampa. Vedremo la politica più avanti. Io, che dire, voglio andare da una segnalazione sul Corriere della Sera per iniziare. La troviamo in prima pagina. In realtà è una storia che io avevo sentito come viaggiatore, come tutti quelli che prendono l'aereo, che avevo sentito negli aeroporti. Non si sa se sia una leggenda oppure no. Il record truccati della valigia rossa a Malpensa sbuca sul nastro e abbatte i dati sui tempi di consegna, ma è sempre la stessa. È una vicenda che il Corriere fa partire dalla segnalazione di un viaggiatore che poi ha mandato una lettera. Un viaggiatore che dice: ho preso un aereo dell'Air Berlin arrivato a Malpensa nei giorni scorsi e ho notato questa valigia rossa, che avevo già notato varie volte, arrivare 2 minuti dopo l'atterraggio subito sul nastro delle valigie di consegna. Allora, che ho fatto? L'ho aperta, perché l'avevo già notata in passato. È una valigia che contiene delle riviste, cose poco importanti. E allora, vuota, senza etichette, ma la valigia rossa arriva sempre prima. Il dubbio è questo: che sia un modo da parte delle aziende che devono consegnare entro dei tempi certi per truccare i tempi di consegna, perché quando viene consegnata la prima valigia viene bloccato il cronometro. Ebbene, questo ascoltatore dice: forse è successo così, siamo atterrati alle 20:15 e il primo bagaglio è stato consegnato alle 20:17, un lavoro record, ma dopo quella valigia ci sono voluti altri 20 minuti per far arrivare le valigie vere, quelle poi ritirate dai viaggiatori. Un modo di truccare i tempi di consegna, questo è anche il sospetto dell'ENAC, che cioè la società incaricata di maneggiare i bagagli di quel volo abbia tentato di truccare questi dati. E allora ecco che è partita in qualche modo un'indagine. L'ENAC vuole vederci chiaro e il Corriere della Sera lancia questa denuncia. La seconda segnalazione che vi voglio fare riguarda la Francia e riguarda il Dalai Lama e riguarda la Cina. Perché? Beh, intanto sapete che, forse l'avete sentito anche nel nostro GR, che Hu Jintao, il presidente cinese, è stato incoronato da Forbes, e lo troviamo a pagina 11 del Sole 24 Ore, come l'uomo più potente del mondo. Hu Jintao, davanti a Barack Obama, terzo l'anziano monarca saudita Abdullah, quarto Putin, poi c'è il Papa, sesta Angela Merkel, Berlusconi è 14°. Ebbene, perché prendo spunto da questo? Perché a Parigi arriva il presidente Hu Jintao, come racconta Marco Mussanè da Parigi, per dare un po', mettere fine anche alle polemiche del rapporto tra la Francia e il Dalai Lama. Ebbene, sappiate che due economisti, e ne rivela La Stampa, pagina 15, hanno anche messo a punto quello che secondo loro è tradotto così in una ricerca: il Dalai Lama fa male all'economia. Ecco uno studio tedesco: ricevere il leader spirituale tibetano provoca il crollo delle esportazioni in Cina. Questa frase "adesso i cinesi faranno sentire su di noi la loro rabbia" si sente spesso quando un paese ospita il Dalai Lama. La Cina minaccia sempre ritorsioni dal punto di vista economico, ed ecco che questi due economisti, Andreas Fuchs e Nils Hendrik Klann, sono riusciti a quantificare, incrociando i dati ONU sulle esportazioni dal 91 al 2008 con l'elenco di viaggi fatti dal Dalai Lama, e hanno dedotto che quando arriva il Dalai Lama nei due successivi anni la riduzione dell'export verso la Cina di quei paesi che lo ricevono è dell'8,1%. Il Dalai Lama fa male all'economia. Ci fermiamo, pubblicità e meteo, e poi ripartiamo dalla politica. In primo piano. E allora è la politica ieri che è stata sicuramente in primo piano con il discorso di Silvio Berlusconi, era la presidenza del Popolo della Libertà, e la sensazione che si evince leggendo i giornali è che siamo a un punto di svolta, come si diceva, perché ieri Berlusconi ha detto Fini faccia sapere se vuole un patto oppure si vota. È la cosiddetta, qualcuno dice, politica del cerino, visto che Fini, atteso in questo weekend dalla prima convention del partito Nuovo Futuro e Libertà, ora si attende di capire se Fini parlerà domenica e accoglierà questo invito oppure deciderà in qualche modo di rompere, di fare qualche mossa che può portare a una crisi. Il piano B, scaricare sul rivale la crisi. Ecco, infatti, Francesco Verderami, l'analista politico, nel suo retroscena del Corriere della Sera, pagina 6, il Cavaliere ha pronto il piano B, che non è un piano alternativo ma proprio il piano Berlusconi, una manovra ad alto rischio che passa dall'offerta di un'intesa a Fini e però tiene insieme lo showdown con il Presidente della Camera e le elezioni anticipate. Dice tra l'altro Verderami: non è vero che il Premier sia stato costretto dallo Stato Maggiore del PDL a tendere la mano all'ex leader di AN come ha voluto far intendere ieri in modo plateale. In realtà il suo progetto prevede che la prima mossa stia dentro i canoni della grammatica politica, al punto che l'intervento ieri in direzione è stato preparato tenendo sul tavolo il discorso di Fini a Mirabello. E c'è un motivo se Berlusconi ha proposto all'inquilino di Montecitorio un patto di legislatura. Il fatto è che il Cavaliere mira adesso a sfruttare le manovre di sganciamento compiute in questi mesi dall'alleato avversario, giunto ormai quasi al punto di non ritorno e con anche pochi spazi di manovra. Cioè la situazione strategica è questa. Anche sul Sole 24 Ore, Berlusconi: da Fini chiarezza o si vota. Anche se Stefano Folli, nel suo tradizionale punto, dice: l'argomento che potrebbe indurre Fini a discutere non è certo una stretta di mano condita da un paio di battute ai piedi dell'altare della patria, come ieri hanno fatto. Ci vuole altro, per esempio una proposta di riforma elettorale, ma su questo sembra un dialogo tra sordi. A proposito di questo dialogo, poche battute ieri all'altare della patria per commemorare il 4 novembre, c'è da dire che tutti si sono sbizzarriti su questo labiale che è stato intercettato o interpretato a Silvio Berlusconi. Alcune parole: è incredibile, è maggiorenne, incensurata. Pare che queste siano state le parole che, tra alcune delle parole che Berlusconi abbia rivolto al presidente della Camera Fini, anche sul Sole 24 Ore c'è la fotosequenza. E anche sul Corriere la fotosequenza, pagina 5, stretta di mano con Fini, misteriose confidenze, incredibile, è incensurata, maggiorenne. Qualcuno ha colto anche la parola maggioranza, finché è intervenuto Eugenio Ficorilli, che da anni è capo del cerimoniale di Palazzo Chigi, una volta divenne celebre anche perché davanti a Papa Ratzinger Berlusconi gli allacciò la giacca dicendo: guardate cosa tocca fare a un premier. Questa volta è Ficorilli, racconta Alessandro Trocino, a mettere una pezza, sussurra due parole al premier, forse lo avverte che ci sono le telecamere che stanno riprendendo, forse gli suggerisce un po' di contegno e Berlusconi smette di parlare. Chissà di cosa stavano parlando. Stavano parlando, insomma, incensurata, maggiorenne, forse delle ultime vicende che coinvolgono, insomma, la vita privata di Berlusconi. La sensazione che sia comunque un'ultima chiamata. L'offerta di Silvio è tardiva e deludente. Questa retroscena di Francesco Bei su Repubblica sarebbe l'atteggiamento di Fini, che comunque ha detto: io parlo domenica. Ci offre oggi un patto di legislatura, ma su quali basi? Solo parole, un'offerta tardiva, un discorso deludente che ha il sapore di una trappola. Ecco, la sensazione che sia una trappola anche per la stampa è questa. Il Cavaliere tenta la grande trappola. Amedeo la mattina, rimarrà lui col cerino. Eccolo qua, l'idea del cerino in mano, cioè far scaricare su Fini la responsabilità di dire l'onere della rottura sta tutto su di te. Gianfranco all'angolo anche per Libero. Insomma, siamo in una due giorni di attesa. Tra ieri, si sapeva già ieri, il discorso di Berlusconi alla presidenza del partito, e oggi e domani, o meglio sabato e domenica, la convention di Futuro e Libertà. La delusione di Fini, ma il suo partito si divide, c'è anche questo da dire, che i finiani certo non sono molto uniti sulle mosse ora da fare, si parla di appoggio esterno al governo, chi vuole la rottura totale, chi invece dice no, continuiamo e vediamo. Certo, se la politica ha ancora un senso, quello che è successo ieri alla commissione nella quale si votava per la finanziaria o ex finanziaria, oggi legge di stabilità, certo, un qualcosa allora bisogna interpretarlo, perché ieri governo battuto sulla finanziaria. Pagina 7 del Sole 24 Ore: è successo che la maggioranza nel pomeriggio è stata battuta su un emendamento presentato dal Movimento per le Autonomie, uno dell'UDC, e sono stati votati questi emendamenti anche da Futuro e Libertà e dalle opposizioni. Dunque i finiani hanno votato con l'opposizione. Con questo emendamento si cancella l'opzione concessa alle regioni di ricorrere ai fondi FAS per compensare i tagli ai trasferimenti per trasporto pubblico locale, edilizia sanitaria operati dalla manovra estiva. E dunque governo battuto sulla finanziaria, tanto che Tremonti è corso subito ai ripari, ha detto: riprendiamo in mano la legge di stabilità, la cambiamo. C'è subito 1 miliardo per l'università, racconta Marco Mobili a pagina 7. Lo ha promesso lo stesso Tremonti, che ieri sera, che è arrivato appunto in commissione bilancio alla Camera, ha proposto di fermare gli orologi, immaginare un corpo di emendamenti da inserire in finanziaria che contenga la bozza del decreto sullo sviluppo. Insomma, già una buona parte di quel pacchetto annunciato da 7 miliardi, il miliardo per l'università, sarebbe già disponibile. Col governo pronto a riprendere, riaprire la legge di stabilità dopo che è stato appunto bocciato in un emendamento nel quale, ripeto, i finiani hanno votato con l'opposizione. E allora ecco che qua si materializza questa idea di una situazione politica quanto mai incerta, ma comunque, cari italiani e cari ascoltatori, nel weekend parlerà Fini, domenica parlerà Fini, qualcosa si capirà di più, anche se per mesi si è andate avanti con queste idee, poi in realtà sono per ora schermaglie, certo, però qualcosa si è evoluto e qualcosa è cambiato. Sullo sfondo cosa c'è? Su tutti i giornali trovate ancora tutti gli sviluppi delle questioni di escort e non escort, anzi Libero è molto chiaro in prima pagina: Santoro crede alle puttane. Questo è il titolo, in realtà il titolo di prima pagina è Le bugie delle escort, anche il giornale Le escort ubbidiscono alla mafia. Sapete che Berlusconi ieri ha detto: ho il sospetto che sia addirittura una vendetta della malavita. E poi ci sono, come sempre, le doppie verità su questa vicenda. Mettetevi l'anima in pace, ci saranno sempre doppie verità, non si saprà mai nulla di certo. Per esempio adesso Nadia Macri, che è la escort che dice: sono stata 3 volte con Berlusconi. Partono le controinterviste, eccola qui, l'ex showgirl Elisa Alloro dice: ma che, la Macri fu cacciata da Villa Certosa perché un giorno il premier esordì, vi racconto questa barzelletta, e Nadia lo interruppe: ma sei vecchio, l'hai già raccontata 1000 volte. Al che, sguardi imbarazzati, Elisa Alloro dice: Berlusconi cambiò colore sul viso e disse: se non vuoi ascoltarla puoi anche andartene. E lei lo interruppe nuovamente. Il premier disse: ma mi lasci almeno finire di raccontare la barzelletta? Questo gli racconta Elisa Alloro. Poi dice: tutte le ragazze lì sbigottite. Alla fine fu cacciata praticamente a calci da Villa Certosa, o meglio, nel senso figurativo, insomma, gli si fece fare capire. Andò via nella sua stanza e Berlusconi raccontò che ne era quasi intimorito, che aveva una storia alle spalle incredibile. Su Libero, eccola qua, Nadia a processo per le botte al figlio. Gli abbiamo raccontato che Nadia Macri ha un figlio che le è stato tolto perché è stata accusata in primo grado, assolta per la verità, per maltrattamenti al figlio, ma partirà ora il processo d'appello, racconta Fosca Binker, alias ai altri non è che Franco Bechis. E mentre dall'altra parte su Repubblica, Ruby, anche Noemi nelle feste di Arcore. C'era anche lei in una delle feste di Arcore. C'erano anche due ministre, si ripropone questo verbale del primo interrogatorio. Poi ora spunta anche un'effrazione misteriosa, un tentativo di furto alla procura di Milano. Secondo il Fatto, porte e armadi forzati, qualcuno voleva le carte di Ruby. Pagina 4 del Fatto, Antonella Mascali racconta anche di che cosa? Di un'intercettazione. Sentite questo passaggio. Durante un'intercettazione, quando ci furono questi tentativi di effrazione, uno degli indagati, secondo quanto risulta al Fatto, il che vuol dire che ho ascoltato le intercettazioni, ho avuto una buona fonte in procura, uno degli indagati chiamò il premier e quasi in tempo reale gli rivelò che Ruby era stata interrogata dal procuratore aggiunto Forno. Poco dopo c'è stato il tentativo di leggere o sottrarre le carte che possono compromettere almeno politicamente il presidente del Consiglio. In realtà questa vicenda dell'effrazione, vedete, è raccontata sul Corriere della Sera anche da Luigi Ferrarella, Giuseppe Guastella in modo un po' diverso. Si parla di allarme scasso a metà, sono due i fatti in questione. Il primo, a tutt'oggi non ancora chiarito, un giorno d'agosto il presidente dei giudici delle indagini preliminari milanese Gabriella Manfrin, dopo colazione, fa fatica ad aprire la porta della propria stanza apparsa fuori asse e si accorge che qualcuno aveva cercato in maniera rudimentale di aprire anche un armadio della vicina stanza della segreteria. Nell'armadio c'erano solo libri, circolare del CSM, nella stanza del capo del GIP non c'era alcun atto dell'inchiesta sulle feste di Arcore e del resto questa porta viene aperta abitualmente dai lavoratori delle cooperative di pulizia che ogni sera girano per il tribunale, armati di mazzi di chiavi di tutti gli uffici. Il secondo fatto invece, sempre in agosto, un giorno la cancelliera del giudice Cristina Di Censo, GIP dell'inchiesta sulle dichiarazioni di Ruby, trovò a terra un faldone di atti, un faldone non di questa indagine, ma lo trovò a terra. Preoccupazione iniziale, poi tutto si ridimensionò perché i dirigenti dell'ufficio rivelarono che il faldone stava su una mensola di un armadio in posizione instabile dal quale poteva essere caduto da solo. E vabbè, come vedete ci sono verità contro verità, la situazione politica è certamente abbastanza caotica in attesa di quello che dirà Fini e la situazione di escort o di puttane, come le definisce Libero in maniera esplicita anche con Cristiana Lodi, a dire è il golpe delle puttane che si chiamano così e dal tempi di Daddario si sono chiamate escort. Questo è il menù che vi devo offrire per la politica. Passiamo ad altre notizie. Io voglio andare alla prima pagina del Manifesto, che apre un po' la pagina di cronaca di questa terribile esplosione che è avvenuta a una ditta Paderno Dugnano nell'Interland milanese. Lavoro bruciato, questo è il titolo di prima pagina del Manifesto, con la colonna di fumo nera che si alza dalla Eureco, questa azienda che smaltisce rifiuti pericolosi. 7 gli operai feriti, 5 di loro sono stranieri, 3 in gravissime condizioni. Ci sono le testimonianze terribili su Repubblica. Dovevamo sposarci tra pochi giorni, le lacrime di Antonella Riunno, che è la 38enne compagna di Salvatore Catalano, ricoverato in gravissime condizioni nel reparto grandi ustionati di Niguarda. Già le fedi prenotate, già acquistate, il ristorante già prenotato, pubblicazioni fatte da un pezzo. Lui era un meccanico da 15 anni assunto all'Eureco e ora è ovviamente in situazioni molto gravi. C'è anche la testimonianza sulla stampa del sindaco di Paderno Dugnano, Marco Alparone, sindaco che dal primo momento dell'esplosione è andato lì, è stato lì tutto il pomeriggio, ancora attaccato al telefono. Ieri sera racconta la stampa: mi ha avvisato la polizia municipale 15 minuti dopo lo scoppio, ho visto con i miei occhi quello che era successo, una scena indescrivibile. Anche su Repubblica raccontano addirittura i primi soccorritori sono arrivati, hanno trovato le persone, ora alcune delle quali in gravi condizioni, ancora in piedi, ancora coscienti, chiaramente sotto shock, eppure volevano provare ad aiutarci, tremavano, ci dicevano venite di là, la fiammata è stata sul piazzale, li abbiamo mandati verso i soccorritori, certo non avevano più i vestiti addosso. Il resto del racconto, per pietà, rimane in gola. È davvero una vicenda drammatica questa di questa esplosione che ricorda in qualche modo la vicenda della Thyssen. Ci fermiamo per il traffico e poi ripartiamo con le altre notizie. In primo piano. La situazione in Veneto, soprattutto per il maltempo, è ancora una situazione davvero difficile, tanto che oggi Luca Zaia, il governatore del Veneto, scrive una lettera che viene pubblicata in prima pagina di Libero. Zaia sfida il governo, 1 miliardo al Veneto se l'Italia è unita. Si fa un gran parlare di unità nazionale, festeggiamenti, comitati, sottocomunitati. Si sventola il tricolore quando c'è da attaccare i leghisti brutti e cattivi. Bene. È arrivato il momento di dimostrarla, l'unità nazionale, coi fatti, prima che con le cerimonie e le celebrazioni. C'è un Veneto, scrive Zaia, colpito al cuore dalla furia dell'acqua, una tragedia che non si è andata certo a cercare, con migliaia di sfollati, case, aziende, negozi distrutti. 3 persone morte, ci sono danni per oltre 1 miliardo di euro. Altro non possiamo fare che chiedere aiuto e non siamo abituati a farlo. Siamo gente che testa bassa e olio di gomito raccoglie i cocci e va avanti, ma questa volta dobbiamo farlo e lo chiediamo al governo. Spiace, scrive ancora Zaia più avanti, che taluni si mettano a cavare analisi improvvisate sulle reali cause della tragedia in un territorio che è tra i più ricchi d'acqua dell'Italia, che ha una tradizione idraulica millenaria. Eppure oggi c'è chi, dagli assolati palazzi romani, pontifica su presunti ritardi, errori, lacune, mentre centinaia di migliaia di persone sono immerse nell'acqua e aspettano una risposta dall'Italia unita. Il mio prima il Veneto non è uno slogan, significa che le uniche priorità per noi sono queste, i cittadini, i cittadini, i cittadini. Come spiegare a costoro che si vedono coi mutui da pagare, che vedono oggi famiglie e migliaia di famiglie in difficoltà, gli anziani senza una casa, gli artigiani in ginocchio, i negozi sommersi dal fango, che ci sono questioni più importanti a cui pensare, tanto i veneti sanno cavarsela da soli? Si dimostri invece che il paese c'è, che accanto a loro, si dimostri che il Veneto non è la periferia dell'impero. Questo Luca Zaia, maltempo in Veneto, 1 miliardo di danni anche per Repubblica, sale il conto dei disastri, la situazione tra l'altro è molto difficile anche a Crotone, non così difficile, ma a Crotone gli abitanti sono messi in salvo sui tetti. E sul Corriere della Sera viene ospitato anche l'appello invece dal nord-est di chi? Andrea Tomat, che è il presidente di Confindustria Veneto, Carlo Mazzacurati, regista, il rettore di Venezia Carlo Carraro, il rettore di Padova Giuseppe Zaccaria, il rettore di Verona Alessandro Mazzucco, lo scrittore Riccardo Calimani e Alvise Zorzi, storico e scrittore. Appello del Nord-Est, pronti a reagire, ma non lasciateci soli. Il Veneto merita considerazione. Questo è l'appello di imprenditori, intellettuali, e c'è da dire che effettivamente la situazione è davvero difficile. Poi noi ne abbiamo parlato ieri, no? Questo lo prevengo per quelli che già ci accusano. Sì, oggi parleremo di Sanremo nel nostro sondaggio, e allora parleremo di Sanremo, e anche quello un tema. Ieri abbiamo parlato del maltempo, Radio 24 segue costantemente questa vicenda nei nostri notiziari. Ed è giusto, secondo me, io il secondo giorno che lo dico, l'appello del governatore Zaia di dire non abbandonate il Veneto. Certo, poi c'è chi lo strumentalizza, in questo caso come credo il giornale, a dire vedete in Veneto si danno da fare, mentre invece a Napoli protestano per i rifiuti. Vabbè, tra l'altro vi annuncio che il sindaco di Giugliano in provincia di Napoli sarà nostro ospite alle 8:20 per l'intervista per parlare di rifiuti. Visto che Zaia ha parlato di unità d'Italia, ed è questo il nostro tema, perché c'entra l'unità d'Italia e c'entra Sanremo, sono ancora pieni i giornali di questa polemica che è stata lanciata, poi è rientrata chissà perché il CDA della RAI ha detto non vogliamo minimamente sentire la canzone Giovinezza, che è stata utilizzata anche dal fascismo come un inno, al Festival di Sanremo. Sarebbe un errore storico. Questo la RAI, no a Giovinezza. In realtà Gianni Morandi dice fidatevi. Per qualcuno hanno messo una pezza che è peggio, una toppa insomma che è peggio del buco, per esempio per Paolo Ferrero, che sarà il nostro ospite alle 8:30, che dice, e certo hanno detto no a Giovinezza, ma neanche no a Bella Ciao, hanno ulteriormente detto che Bella Ciao, canzone utilizzata poi dai partigiani, e Giovinezza in al fascismo sono sullo stesso piano, mentre non devono essere considerate sullo stesso piano. In ogni caso, polemiche contro polemiche, una cattiva Giovinezza è anche il titolo dell'intervista che Malcolm Pagani e Silvia Truzzi sul Fatto fanno a Roberto Vecchioni, che dice Sia Giovinezza che Bella Ciao sono due canti tradizionali, però Bella Ciao pronuncia un universale inno alla libertà, mentre Giovinezza è una pura prevaricazione, un inno alla prevaricazione. L'unità mette in realtà un paio di vicende in primo piano, mette Ruby, la ragazzina diventata maggiorenne, Ruby, in prima pagina, e sotto una foto sullo sfondo una parata fascista, Giovinezza, Giovinezza. E insomma, le polemiche ci sono, voi che ne pensate? Vi chiediamo di votare su radio24.it Giovinezza e Bella Ciao a Sanremo per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia e della Repubblica. Siete d'accordo? Votate. Poi ne parleremo alle 8.30. Voglio concludere con questa segnalazione che c'è sul giornale, ma anche in prima pagina sul Secolo XIX. Italiani preoccupati dalla crisi? No, dal parcheggio. Ed ecco qui, è l'indagine dell'Istat che fa discutere, un'indagine su 19.000 famiglie, perché noi siamo un po' così italiani, contenti in privato ma lamentosi in pubblico. E infatti in questa indagine dell'Istat il 55% delle persone interrogate ha detto che cosa diamo come voto alla nostra vita, cioè come soddisfazione? Un bel 7 all'8, un bel 7 più. La crisi ci preoccupa, ma neanche più di tanto. Che cosa ci preoccupa? Qual è la preoccupazione, le cose che danno più fastidio agli italiani? Primo posto, il traffico. Secondo posto, la difficoltà nel trovare parcheggio. Terzo posto, inquinamento dell'aria. Poi il rumore, non fidarsi di bere acqua dal rubinetto, la sporcizia delle strade, la difficoltà a prendere i mezzi pubblici. All'ottavo posto, il rischio criminalità, la prima cosa un po' concreta, tanto che il giornale dice: ma come, vediamo tanti temi sui matrimoni gay, l'eutanasia, temi, temoni, questioni molto alte, e poi gli italiani, arriva l'Istat e dice: di cosa avete paura? Traffico, il parcheggio, l'inquinamento dell'aria. Va bene, ci fermiamo qui, il GR 24 mattino, l'intervista. Eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:20. Il protagonista della nostra intervista è l'eurodeputato dell'Italia dei Valori, Luigi De Magistris, che saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, ascoltatore. Senta, che ci faceva un paio di giorni fa Giuliano a parlare di rifiuti? Libero addirittura ha detto: arriva De Magistris e fomenta la folla con scontri con la polizia. Ma lasciamo stare Libero, invece parliamo di una cosa seria. Io sto tra il popolo che sta manifestando il rispetto per la salute pubblica e ritornare protagonista nella difesa dei propri territori. Ovviamente il no alla violenza è incondizionato e assoluto, e la mia storia da ex magistrato ovviamente lo testimonia. Sono stato a Terzigno, sono stato a Taverna del Re, sono stato nel Parco del Pollino, in tutti quei posti laddove si sta distruggendo con una politica scellerata in materia ambientale la natura. Del resto i campani sono stati presi in giro sul tema dei rifiuti da Bertolaso e Berlusconi, quindi sono andato a vedere se erano diciamo manifestanti, donne, giovani e uomini che presidiavano Taverna del Re. Ho visitato Taverna del Re e mi sono reso conto, ho avuto la conferma di quello che già sapevo, è un sito assolutamente inidoneo per poter raccogliere ulteriore spazzatura. Senta, tra l'altro lei è un uomo del sud, è campano, ha vissuto per anni in Calabria, ha sentito il governatore del Veneto Luca Zaia che dice: lì si protesta e noi qua siamo sotto, nel Veneto, sotto l'acqua, non ci danno i soldi, è una tragedia, nessuno ne parla. Lei almeno su questo è d'accordo? Ma la protezione civile di Bertolaso è fallita. Dispiace, perché Bertolaso è un uomo che ha ingannato il paese per tanti anni, è fallito, e per fortuna la magistratura, attraverso un'inchiesta delicata come quella di Firenze, ha fatto capire come gestiva i soldi per il terremoto dell'Aquila, come ha gestito il problema dei rifiuti. Hanno fatto credere per 2 anni che il problema dei rifiuti era risolto, Berlusconi ci ha vinto anche le elezioni, invece è come se in una casa prendi la polvere, la sposti dal divano, la metti sotto al tappeto. Beh, però quindi le inchieste saranno in corso al limite, non è che hanno dimostrato nulla. No, per il momento. Nel senso, hanno dimostrato che era un po' distratto, come dire, oltre dai massaggi anche da sistemare gli appalti agli amici degli amici, cioè questo voglio dire, al di là delle responsabilità penali. Sono frasi forti, lei lo sa che insomma, da ex magistrato se ne assume la responsabilità. Certo, me ne assumo la responsabilità personale. Quello che è grave è che non ci sta più un sistema di protezione civile idoneo. La vicenda del Veneto lo dimostra, la vicenda della Campania, la vicenda della Calabria si è investito per esempio sui rifiuti quasi esclusivamente su discariche incontrollate e sugli inceneritori. Non c'è stata una politica, e questo ovviamente non riguarda solo Bertolaso, faccio anche un discorso più ampio, in grado di poter finalmente affrontare un ciclo dei rifiuti compatibile con l'ambiente. Vabbè, Mazzai ha ragione se dice che oggi, anche in una lettera su Libero, dimostrate che il Veneto non è la periferia dell'impero, cioè, caro, visto che si parla tanto di unità d'Italia, aiutate il Veneto che è sott'acqua. E magari non protesta, insomma, non manda le persone a protestare. Io credo che bisogna aiutare tutte le comunità che stanno in difficoltà, non c'è distinzione di nessun tipo da questo punto di vista, come bisogna aiutare gli immigrati quando stanno affondando nei barconi. Quindi da questo punto di vista ha perfettamente ragione. Non è questione, è vero quello che pone la questione lei, non bisogna aiutare solo quelli che mostrano i muscoli. Vede, Terzigno, a un certo punto che è successo? La popolazione ha protestato e la politica ha pensato di spostare i rifiuti da una parte all'altra come i giocatori delle tre carte, poi protestano pure là e adesso li vogliono spostare in Calabria. In Calabria la gente in genere protesta un po' di meno, invece non è giusto, non è che bisogna misurare le scelte di questo tipo a seconda della capacità di protesto, la determinazione di protesta di un popolo. Senta, parliamo delle vicende di Berlusconi. Il fatto che il procuratore di Milano Bruti Liberati dica non è indagato, non c'è un'indagine, e poi vedremo la questione della telefonata, un'altra cosa, ma dal punto di vista dei reati penali non ci sono indagini, la questione non dovrebbe essere chiusa e derubricata a uno stile di vita opinabile o no, discutibile o meno, del Presidente del Consiglio? Ma io non credo che noi veramente dobbiamo ridurre in questo paese ogni questione di rilievo politico solo quando c'è una questione giudiziaria. La questione morale è qualcosa che va al di là e viene anche prima della questione giudiziaria. No, noi abbiamo sempre detto, e questo io lo sostengo fermamente, la politica ad esempio deve arrivare prima della magistratura. Quella è una condotta disdicevole sotto diversi punti di vista, a parte il Presidente del Consiglio che pare, ovviamente usiamo il termine pare, sia andato con una minorenne in rapporti ovviamente da utilizzatore finale, come lo definiva Ghedini. Smentiti dalla stessa minorenne. Questa è la ricostruzione che più o meno mi sento di fare, perciò ho usato comunque il condizionale, che mi par d'obbio. La telefonata alla questura, l'utilizzo del sistema di sicurezza delle scorte in modo disinvolto. Io credo che oggi si pone un problema di sicurezza nazionale, questo è il tema. Io credo che Berlusconi, da capo del governo, mette in pericolo la stessa sicurezza nazionale, perché è un soggetto potenzialmente ricattabile. Ecco perché è stato anche, credo, convocato dal Copasir, che si occupa della sicurezza anche nazionale e del problema dei servizi e come viene garantita la sicurezza allo stesso Premier. Mi sembra un colabrodo, dalla vicenda della statuetta di Milano in poi, per non parlare della vicenda montata che ha riguardato il direttore di Libero ed altre cose, mi sembra che ci troviamo di fronte a uno scenario molto confuso e molto pericoloso. Perché dice montata? Cioè, lei non crede all'attentato? Ma francamente io non ho mai creduto, poi sarà la magistratura ad accertare la sua piena autonomia, ma mi pare che la vicenda si sia francamente abbastanza sgonfiata. Cioè, in che senso? Cioè, si è inventato qualcuno? Chi? No. La gente? Innanzitutto Del Pietro potrebbe essere a sua volta la stessa vittima, infatti io sin dal primo momento, al di là di quale fosse l'accertamento dei fatti, ho espresso vicinanza e solidarietà al direttore di Libero. La vicenda mi è sembrata subito una grande mutazione, ma vede, lo stesso Berlusconi e tante altre persone oggi possono essere strumento e vittima di pezzi deviati delle istituzioni che in modo occulto ricattano e muovono le fila di questo paese. Attenzione, io sono molto preoccupato di quello che c'è sotto, che non emerge. Quindi quella vicenda rientra tipicamente nella strategia della tensione, quella di Belpietro. Poi voglio dire, è grave la dichiarazione del ministro dell'Interno, che la prima dichiarazione che fa è: la vicenda Belpietro è colpa dei toni alti del paese, la solita litania che è colpa di chi difende la Costituzione, chi difende la democrazia e chi si oppone a una deriva autoritaria nel nostro paese. Va bene, io la ringrazio per essere stato con noi, Luigi De Magistris, grazie, ovviamente buona giornata, eurodeputato dell'Italia dei Valori. Noi ci fermiamo per pubblicità e meteo. Poi parliamo di questa vicenda di Sanremo. Ebbene sì, ci siamo cascati anche noi, ci cadiamo anche noi. La vicenda di Sanremo, la volontà di far cantare, poi forse la RAI adesso fa rientrare tutto, ma chissà, Morandi dice fidatevi di noi, la volontà di far cantare, Bella Ciao, che negli anni è nato in un modo, ma poi è stato preso come inno anche dei partigiani della liberazione, e Giovinezza, canzone nata in un certo modo, ma poi diventata inno del fascismo per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia. Che ne pensate? Votate su radio24.it oppure 800 24 0024 tra poco. 24 mattino. E allora eccoci qua, alle 8:33 minuti, siamo pronti al nostro sondaggio a parlare di Sanremo. Sì, a Sanremo, dove l'idea, chissà, avrà forse le gambe corte questa idea, perché il CDA della Rai si è subito infervorato, di far cantare per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia Bella Ciao e Giovinezza, che poi divenne l'inno del fascismo. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Noi le abbiamo messe, poi non lo so se si è arrabbiato l'onorevole Paolo Ferrero. Ferrero, buongiorno. Buongiorno a lei. Saluto anche Teodoro Buontempo, buongiorno, ciao, assessore della destra. Ferrero, si è arrabbiato? No. No, penso che una discussione, diciamo, storica è una cosa, sì. E qua lei ha richiamato i due temi. Un'altra cosa è trasformare e mettere sullo stesso piano due canzoni che sono, una il simbolo della liberazione di questo paese dal nazifascismo, invece l'altro è il simbolo del fascismo e di chi appunto si è alleato col nazismo e ha combinato quello che ha combinato durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma adesso ne parliamo. Intanto voglio salutare anche l'eurodeputato del Popolo della Libertà, Iva Zanicchi. Buongiorno, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Le faremo fare un intervento sia politico, ma insomma anche come esperta. Il palcoscenico dell'Ariston l'ha calcato quante volte, Iva? Beh, sì, penso 12 volte. 12 volte. Sì, sì. Vabbè, insomma, a Sanremo ci sono sempre polemiche. Però intanto, Paolo Ferrero, ma è vero che lei dice hanno messo al CDA della Rai una classica toppa peggio del buco, cioè hanno fatto questa decisione che qualcuno ha detto salomonica o pilatesca, no? Allora via tutte e due, che lei dice è peggio, perché è l'ulteriore dimostrazione che sono due canzoni messe sullo stesso piano. Sì, perché era sbagliato dire che si mettevano Bella Ciao e Giovinezza mettendo sullo stesso piano. Poi, avendo deciso di toglierle entrambe, in realtà per togliere Giovinezza hanno detto togliamo anche Bella Ciao, vuol di nuovo metterle sullo stesso piano un'altra volta. E lei vuole andare a cantare Bella Ciao fuori dall'Ariston? Noi gli andremo a ricordare che grazie al fatto che Bella Ciao ha vinto, oggi abbiamo la democrazia nel paese. Buontempo può fare l'assessore come ha fatto il parlamentare e si può discutere in questa radio. Se avesse vinto Giovinezza, forse non ci sarebbe questa radio, io non sarei qua a discutere e magari nemmeno Buontempo farebbe l'assessore. Quindi il fatto che abbia vinto la democrazia e quelli che si sono battuti per la libertà dovrebbe essere la condizione da tutti riconosciuta come la base della convivenza civile, non equiparare chi cantava Bella Ciao e chi cantava Giovinezza con lo sdoganamento di entrambi. Assessore Buontempo, che ne pensa di questa vicenda e della posizione di Ferrero? Vorrei dire che in tutti i paesi dell'est europeo dove regnavano con le idee che esprime Ferrero, le radio, a cominciare da quelle ungheresi, furono messe tutte a tacere. Questa è una realtà, non è una fantasia per il futuro. Secondo, anche dalle parole di Ferrero si evince che cosa? Che loro scambiano la storia con la propaganda. Intanto bisogna fare i complimenti a chi si è inventata questa cosa che ha fatto già tanta pubblicità quello sì, a Sanremo, chiaro, che era un po' in crisi, è chiaro, in calo. E quindi, ma la serata non è dedicata a una parte politica contro un'altra parte, è una serata storica, 150 anni di storia dell'Italia. Allora, se vi sono delle canzoni che sono state cantate da milioni di uomini e donne e hanno rappresentato un'epoca, cioè la storia non si fa con le parentesi, sì, con il silenzio, sì, sì. Allora, voglio dire, non c'è dubbio che Bella Ciao è stata cantata da milioni di persone che credevano in un percorso politico, ma è anche altrettanto vero che altri milioni di italiani hanno cantato giovinezza perché si identificavano in un certo periodo questo è un fatto, ma Ferrero dice quelli che cantavano giovinezza, lo traduco io brutalmente, quelli che cantavano giovinezza sbagliavano, perché insomma, come giudizio storico, no? Perché cantavano un qualcosa che qui non si deve giudicare, ci possono essere canzoni di epoche condivisibili e di epoche non condivisibili. Ci possono essere canzoni tristi e canzoni allegre. Qui era da identificare anche con la musica, che è un po' l'anima popolare, cosa è accaduto nel nostro paese in 150 anni, dove c'è stato il fascismo, così come c'è stata la resistenza. Sì. Non si può negare né l'una né l'altra. In questo caso non si sposa né l'una né l'altra cosa. Cioè è solo una rivisitazione storica. Ecco, però... Se noi volessimo fare una mostra di pittura, no? O di poesie, o una serata di poesie, non è che si saltano 20 anni e poi si ricomincia da capo. Sentiamo che ne pensa. Allora, Iva Zanicchi, ha capito, insomma, il clima è questo. Ho capito, intanto devo più o meno ripetere quello che hanno già detto. Complimenti a tanto agli organizzatori, perché ecco, hanno trovato un modo per far parlare due mesi prima del festival in modo polemico, e si parla del festival, sono bravissimi, tutti gli anni trovano qualcosa, adesso vedremo che tra poco Belen ne combinerà una delle sue, ed è giusto far parlare perché attirare l'attenzione su questa grande manifestazione. Allora, di un nulla adesso è venuto fuori un caso, mi scappa, vorrei dire una cosa che forse non è carina, ma tutti quelli, tanti che cantavano giovinezza, io sono emiliano, lo posso ben dire, hanno poi cantato Bella Ciao, non se ne sono preoccupati più che tanto, prima forse erano obbligati a cantare giovinezza e poi hanno scelto liberamente di cantare un Bella Ciao, che Bella Ciao sappiamo tutti, io l'ho cantata tantissime volte, è una canzone popolare bellissima, nelle feste popolari io la cantavo, è la canzone della resistenza, la resistenza non si può dire che sia soltanto di sinistra, perché la resistenza è stata fatta anche da gente che non era proprio prettamente comunista, per cui è una canzone bellissima che spiega chiaramente e che ci ricorda chiaramente, e non dobbiamo dimenticare un periodo tremendo della nostra storia, ecco, per cui va benissimo. L'altra, come diceva, se noi vogliamo fare una cronologia delle canzoni di 150 anni di storia d'Italia, beh, c'è dentro anche giovinezza, nel bene e nel male. Poi ci sono tante altre canzoni che, non so, quella per esempio Mamma mia dammi 100 lire, che in America voglio andare, l'ho cantata fino a poco tempo fa la mia mamma poverina, che adesso è scomparsa, non dobbiamo avere paura delle ombre, va bene, sappiamo. E non aver paura delle canzoni anche. È un periodo tremendo, tragico, ma se dobbiamo fare 150 anni di storia non possiamo dimenticare che ci sono alcune canzoni che ci ricordano il ventennio. Tra l'altro qualcuno ci scrive, Zanicchi, ricordate a Zanicchi quando a Parma cantava per il Vietnam? Certo, perché no? Io sto dicendo, e cantavo Bella Ciao, ma io ho avuto lo stesso modo quando per esempio mi chiamava la festa dell'amicizia, io tante volte ho cantato Bella Ciao e mi dicevano ma perché, scusa, perché io so che la resistenza non era solo dei partigiani comunisti, io ho conosciuto il nipote di un prete, Don Mario, che in Liguria era partigiano e ha fatto tanto bene e non era comunista, ma perché? Loro sono bravissimi, io li ammiro, tanti amici che si sono appropriati di questa bella canzone, è diventata un po' la loro, più di altro meglio bandiera rossa, potevano mettere anche bandiera rossa o bianco fiore dentro volendo, però insomma io dico che è bello parlare di musica anche in modo distorto, così ci dimentichiamo anche di altre brutture che in questi giorni insomma non si fa altro che parlare di meglio parlare di Io Bella Ciao e di Giovinetta. Vabbè, sulle brutture poi magari voglio approfondire. Onorevole Ferrero, detto che il 63% dei nostri ascoltatori per il momento dice no, non vogliamo sentirle, non vogliamo equipararle, però anche Buontempo dice perché pensare che sia un'equiparazione storica, voglio dire, se si rivisitano i 150 anni della storia d'Italia, dell'Unità d'Italia, c'è anche il fascismo, che facciamo? Dobbiamo cancellarlo? No, non possiamo cancellarlo. Ah, io non penso che vada assolutamente cancellato il fascismo, e se fosse una trasmissione storica io sarei molto d'accordo a far sentire le notte di giovinezza e a far vedere i campi di concentramento o quelli che caricavano sui camion la gente da mandare a Mauthausen sulle notte di giovinezza, così chi ascolta giovinezza saprebbe che cosa è stato fatto in nome di quella splendida melodia molto allegra che inneggia la gioventù. Si capirebbe che in nome della gioventù, appunto primavera di bellezza, si sono ammazzati qualche milione di persone nei modi più atroci che l'umanità abbia conosciuto. Quello sarebbe un programma storico. Cosa diversa è trasformare quella canzone, che è il simbolo di quel regime, in una canzonetta da cantare mentre si va in bicicletta, perché la si è sentita a Sanremo, perché è uscita nei CD e nei dischi di Sanremo, perché sta nel canzoniere, che immagino venga ancora pubblicato, di Sanremo, cioè che entra, cioè che diventi una canzone popolare, del costume, no? Esatto. Del costume del paese. Cioè lei non vuole magari qui c'è il punto, che la storia del nostro paese contiene il fascismo, solo che noi dobbiamo dire in modo netto, e Bontempo non lo dice, non lo dicono i suoi, se quella lì, facendo parte della storia del paese, va bene, oppure se quella parte della storia del paese è una parte di cui ci dobbiamo vergognare perché è stata corresponsabile del più tragico atto di barbarie dell'umanità, cioè l'olocausto, i campi di concentramento. Questo viene sorvolato, viene fuori gli italiani brava gente, e invece no, gli italiani hanno fatto la guerra con Hitler e hanno combinato un vero disastro. Allora, aggiungo solo per buon tempo che i comunisti italiani hanno fatto la lotta partigiana e, come diceva Iva Zanicchi, assieme a tanti altri liberali, democristiani, repubblicani, senza particolari fede politiche o quant'altro, e i comunisti italiani, avendo vinto la lotta per la libertà, hanno lavorato a costruire la Costituzione italiana, che è quella che ancora oggi difendiamo, e quindi di questo stiamo parlando, non di Stalin, che per quanto mi riguarda ho sempre avversato, ma parliamo di che cosa hanno fatto i comunisti in Italia, che hanno prodotto la democrazia. Si fermi qui, paese, Ferrero, devo dare le informazioni sul traffico, poi risponde Bontempo e Iva Zanicchi. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. E allora 800 24 00 24, vediamo se due ascoltatori rapidamente cosa ne pensano, ce lo dicono. Andrea da Padova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Dottor Milan, la mia considerazione è questa: chi gestisce la RAI ha scelto i direttori artistici, coloro i quali hanno creato il progetto e questa fantastica idea commerciale di proporre queste due canzoni. Però ecco, dal punto di vista tecnico, fai la scelta di affidare il progetto e poi lo contesti. Io qui mi domando, ma come viene gestita? Io sono un piccolo imprenditore. C'è stata un po' di, come dire, l'autonomia di Morandi, di Mazzi, e poi si sono tutti impauriti, hanno detto no, ma che certamente succede? Ma voglio dire, Morandi prima di tutto, io guardi, sono sempre stato un elettore di destra, di centrodestra, moderato, che inizialmente ha votato Berlusconi, poi adesso sono un astenuto ormai Ma che c'entra in questo caso? Posizione. No, ma c'entra assolutamente. Morandi non mi sembra una persona assolutamente che ha proposto e hanno proposto questa idea. Su cui l'onorevole Ferrero ha fatto delle considerazioni, secondo me, troppo profonde, e consiglierei proprio a questi politici che si occupassero con la stessa profondità e con la stessa capacità che ha avuto in questo momento e ha fatto un discorso molto ben articolato di altre cose. Andrea, mi scusi, volevo solo concludere, sia breve, Andrea, ma, 5 secondi. È l'ultima opportunità che viene lasciata a qualche nonno, quindi il nonno che ascolta la trasmissione, che ascolta Bella Ciao, se è schierato da una parte dirà, giovinezza era il nipote, è la canzone che cantavano, l'avrebbero spiegato a qualche giovane che di queste cose non ne sa più niente, tra qualche tempo questi nonni non ci saranno più e tutto questo uscirà solo dalle bocche. Va bene Andrea, la ringrazio, perché sennò esondiamo come succede al Bacchiglione a Vicenza. Grazie. Hassan da Verona, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Io vorrei anche essere un po' sintetico. Visto il problema economico, sociale, politico ultimamente, io penso che l'unica cosa che può unire l'Italia, visto che si parla di 150 anni d'Italia, perché non si fa l'inno nazionale come i canzoni? Perché ma credo che quello sarebbe l'apertura della serata, è quello. Cioè, lì. Farlo imparare a tutti, anche nelle scuole, anche qualche calciatore non lo sa ancora farlo, magari approfittare di questo. Non serve come occasione per dividere l'Italia, ma serve per unire, secondo Va bene, me. La ringrazio. Hassan, Teodoro Buontempo, lei quando ascolta Giovinezza, quando sente Giovinezza, si vergogna, come dice? Risponda chiaramente a quello che dice Ferrero, pensa a un periodo di cui bisogna vergognarsi? Sì, oppure no? Intanto mi sembra che Ferrero veda questa questione solo come propaganda politica o come pregiudizio ideologico, perché appunto l'idea era di ricostruire 150 anni della storia del nostro paese scegliendo i brani più significativi che hanno accompagnato la nostra comunità nazionale. Però Ferrero ha posto questo problema, Ferrero. Ecco. L'idea che un quindicenne ascolta Sanremo e poi se ne va in giro in bicicletta due giorni dopo a canticchiare Giovinezza, Ferrero, magari come ha denunciato Panza con i suoi libri, c'era anche chi cantava Bella Ciao mentre trucidava le persone dopo la fine della guerra, dimostrato da pagine e pagine di storia. Ma io non volevo parlare di questo perché è drammatico. Non si può negare che ci sono state anche gli anni del consenso, intorno agli anni 30, dove quasi l'intera Italia cantava Giovinezza, e mi pare anche che da tutte le immagini possibili esca fuori un'Italia serena. Poi tutte le altre vicende della storia ci mettiamo sul piedistallo e le possiamo condannare. Cioè, lei dice Giovinezza comunque legata a un periodo in cui l'Italia era serena, o gli italiani sentivano sereni. Festeggia l'aeronautica, le divise dell'epoca in cui fu fondata l'aeronautica in Italia non è che vengano nascoste. I carabinieri, quando ricostruiscono la loro storia, nelle sfilate alla presenza del capo dello Stato, indossano le divise di ogni epoca della storia d'Italia, e questo avviene per i finanzieri. Sì. Cioè la storia è un filo che non può essere spezzato. Poi ognuno di noi è libero di apprezzare, di giudicare negativamente, di disprezzare. Sì. Ma non si può annullare una parte della anni storia. Di storia nel nostro paese. Quindi se quella canzone si identifica con quel periodo storico, il cantarlo non vuol dire esaltare un bel nulla, a meno che Ferrero non dica che cantando Giovinezza e cantando Bella Ciao vuole esaltare anche i crimini che sono stati fatti nel Triangolo Rosso, a proposito di quello che dice Panza, nel Triangolo Rosso, dove ancora oggi vengono ritrovate persone sepolte senza croce, nascoste, e partigiani bianchi, partigiani legati non a partito comunista. La vicenda raccontata da Panza. Io però ho un minuto e mezzo. Iva Zanicchi, a cosa si riferiva prima quello che si leggeva sui giornali? Vabbè, ma è facilmente intuibile. A che cosa mi riferisco? Lei da donna è un po' infastidita da quello che legge? Sì, questo accanimento così. No, in che senso? Dell'accanimento? Noi siamo fatti così. Guardiamo per esempio le televisioni e le radio su questo crimine tremendo di questa povera ragazza Sara Scazzi. Insomma, è una cosa vergognosa. Dalla mattina, notte fonda, non si parla d'altro. Perché? Perché, secondo lei, lo sa meglio di me, perché si fa odio, perché si fa ascolto, certo. Perché le trasmissioni hanno aumentato di 10 punti. No, va bene, è questo. Allora, qui il problema è, facciamo 150 anni di storia italiana? Facciamo una serata dedicata alle canzoni più conosciute, più cantate in questi 150 anni, e allora è un lavoro immane, perché ce ne sono dentro di canzoni. Certo. E allora questo è stato fatto di proposito per chiaramente lo sappiamo perché gli autori che sono stati bravissimi a mettere assieme giovinezza e bella ciao. Però quello che ha detto ultimamente è una cosa che mi ha colpito tantissimo, adesso non vorrei entrare in un campo strettamente politico, ma io so di casi e poi lo porterò perché voglio che la gente sappia quello che è successo per esempio al mio paese sull'Appennino Toscano-Emiliano, perché ancora si ha paura a parlarne. E io invece lo farò a breve, perché lì sono stati sepolti 8 ragazzi di 17 anni trucidati dai partigiani, quelli di Modena, che più che partigiani, alcuni lo sappiamo tutti, erano delinquenti usciti dalle carceri di Modena, hanno trucidato questi ragazzi che si erano arresi di 17-18 anni, li hanno sepolti lì nel passo di Pratorena, inutile nasconderlo, ancora dopo 60 anni si ha paura a raccontare questa cosa. Io però ma su questo guardi, ci ritornerò su questo tema, ma devo veramente chiudere altrimenti sforo. Vi ringrazio tutti, dico a lunedì e torneremo a parlare di queste cose. Thank you.